La zanzara con Luca Telese. Buonasera, torniamo a ronzare nel programma più torrido dei pomeriggi agostani. La zanzara è ancora qui a discutere, a parlare, a intrattenervi, ma anche a divertirvi, se possibile, a farvi parlare dei piccoli, grandi temi che, come sempre, la stampa, i giornali e i media ci fanno rimbalzare anche quando siamo sotto l'ombrellone. Allora, per scaldarci, cominciamo subito con i titoli del TG2. In Italia 2 milioni di pensioni di invalidità, al sud sono il doppio rispetto al nord. Nella relazione del Ministero dell'Economia sottolineata la necessità di maggiori controlli. Per la Banca Centrale Europea la crisi ha un punto di svolta, resta l'incertezza, ma dal 2010 ci sarà la ripresa e il prodotto interno lordo dà già buoni segnali in Francia e Germania. L'Unione Europea ha inasprito le sanzioni all'ex Birmania dopo l'ultima condanna al premio Nobel San Suu Kyi per i suoi giudici, congelamento dei beni e divieto di ingresso nei paesi europei. 140 tedeschi in Italia con un volo charter per giocare al Superenalotto. Obiettivo: vincere i 131 milioni e mezzo di euro in palio, il più ricco montepremi in Europa. Lo sapete, per scaldarci partiamo sempre da questo, dai TG, abbiamo sentito i titoli e adesso del TG2, adesso passiamo naturalmente a Studio Aperto. 10 anni, arriva in coma all'ospedale di Palermo e muore poco dopo. Secondo i genitori è stato picchiato dagli amici. Il referto dei medici parla solo di complicazioni di un asma, ma il padre non ci crede e denuncia, aveva lividi sul corpo. Lecce, bimbo di 3 anni, ricoverato per le botte. Bombe fatte in casa, proiettili da mortaio, ordigni della guerra mondiale. Aveva il garage imbottito di esplosivo e poteva far saltare in aria tutta la città. A Udine la polizia indaga su un giovane di 25 anni che si sarebbe ispirato a una bomber. Giro di vite del fisco sui capitali all'estero. Sotto indagine 170.000 italiani con residenza o depositi nei paradisi fiscali. Eredità Agnelli, dopo le denunce della figlia Margherita, l'Agenzia delle Entrate cerca in Svizzera un tesoro da 1 miliardo di euro. Insultato nell'indifferenza generale, Ali, un immigrato congolese di 37 anni, caposale in un ristorante di Latina, si è licenziato. Un cliente mi ha detto sporco negro, racconta, e il principale sindacato hanno liquidato la faccenda come problema personale. Me ne vado per non svendere la mia dignità. La super rapina da 50 milioni di euro, messa a segno e danni di una gioielleria di Londra, è sempre più simile alla trama di un film. Come Mission Impossible, secondo il Sun, i banditi avevano sul volto maschere di lattice. Allora, la notizia della rapina è intrigante, la notizia di Ali è sconvolgente e siamo sempre qui a raccontare questo. E guardate, la zanzara, la possente redazione che sovrintende a questo programma, aveva deciso di partire proprio da qui, cioè da quello che sta dicendo oggi il nostro direttore dell'Agenzia delle Entrate su loro, su questa fantomatica categoria, sulla croce, sulla delizia della storia d'Italia, sugli evasori. Ma noi non abbiamo deciso di perseguire i miliardari, ma abbiamo deciso, e lo ha deciso il governo, di intensificare l'azione nei confronti di tutti coloro che hanno capitali detenuti illegalmente all'estero. Questo è il nostro obiettivo. Non sono solo i miliardari, sono tutti quelli che hanno appunto qualcosa all'estero non dichiarato in Italia, e la nostra azione è allargata, è su tutti i fronti, stiamo operando a 360 gradi. Sono tutti soggetti che hanno dei capitali all'estero non dichiarati al fisco italiano. Noi stiamo incrociando in questo momento i dati fra le comunicazioni che ci fanno per legge gli intermediari finanziari sulle movimentazioni da e per l'estero di capitali e le dichiarazioni che i cittadini italiani avrebbero dovuto fare nel predisporre la dichiarazione dei redditi. Ma la politica italiana ovviamente è avvitata sui soliti temi, passate le gabbie salariali come se fossero un colpo di sole estivo, resta da discutere sulla guerra fra il TAR del Lazio e i professori di religione. Davanti alla Chiesa PD e PDL sembrano d'accordo, infatti sentite Fioroni e Gasparri, tutte e due contro il TAR. Il nostro ordinamento prevede l'insegnamento curriculare della religione cattolica che concorre al credito formativo perché è un corso che amplia sicuramente le capacità conoscitive e di formazione e di educazione dei nostri ragazzi. Una decisione giusta che deve portare alla cancellazione di una decisione bizzarra che discrimina i cattolici e non fa onore alla giustizia amministrativa, che porterà questa decisione nell'album delle sue vergogne. ma voi vi state scaldando, siete pronti a dirci i vostri pareri, le vostre impressioni, le vostre emozioni di questo scorcio d'estate? Ricordatevi i numeri di telefono 824 0024, numero verde gratuito, e 349 238 6666 per i vostri SMS. Sul TAR una voce stonata o intonata a seconda dei gusti, quella di Rita Bernardini, segretaria dei Radicali. Questo è il paese, purtroppo, in cui gli insegnanti di religione cattolica sono nominati direttamente dal vescovo, vengono pagati di più ed hanno una carriera più facile. Allora, sapete che la zanzara è lì, oscilla fra il sacro e il profano, e in questo momento topico, fatale, importante del paese, il Super Enalotto ci ha vinto. Pensate che il regista di questo programma ha testé annunciato, questo è il livello a cui è arrivata la nazione, il regista qui da Roma, quello da Milano, immagino sia una persona seria, che se lui vince ci lascia e se ne va, abbandona la console. Questo è il livello, io spero che sia licenziato prima ancora che arrivi il verdetto del Super Enalotto. Ma questo per dirvi che non siamo solo noi italiani, non siamo solo noi che abbiamo perso la testa. Pensate, sono arrivati i tedeschi, sono scesi, sono calati non per colonizzare le città, ma per giocare anche loro la loro brava schedina. Sentite. La febbre da Super Enalotto ha varcato i confini ed è arrivata anche in Germania, dove la Bild, il maggior quotidiano, in collaborazione con Air Berlin, ha messo in palio 140 biglietti gratis destinazione Milano. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi. Basta una telefonata per provare ad aggiudicarsi 131 milioni e mezzo di euro. E con una cifra così astronomica, l'eccitazione da jackpot è diventata globale. Nessuno rinuncia a tentare la sorte. Questi numeri? Arrivati adesso da Lisbona. D'altronde anche l'anno scorso si era sparsa la voce in tutto il mondo, tanto che persino la giovane ereditiera Paris Hilton e la sua amica Dasha, fidanzata di Abramovic, che di soldi proprio non hanno bisogno, avevano provato il brivido del nostro Super Enalotto. Ma noi italiani non siamo certo da meno, da nord a sud impazzano i sistemoni. Non c'è una ricevitoria senza coda davanti allo sportello e sono molte le giunte comunali che si affidano alla dea bendata per sistemare i bilanci. I consiglieri di Anguillara Sabazia alle porte di Roma si sono addirittura autotassati per giocare. E come se non bastasse il delirio per quelle sei crocette, alla SNAI si può scommettere sull'uscita o meno del jackpot. Il sì è dato a quota 4 contro l'1,17 del no. Stasera alle 20.45 il verdetto. Che bello questo servizio di studio aperto, che divertente questa notizia e anche questa canzone meravigliosa. Io non la conosco, chi è Rita Pavone? Diteci il titolo, perché... Betty Curtis, e noi vogliamo rimandarla come tormentone, come tappeto dorato che ci porti fino all'estrazione. Allora, stiamo parlando di tante cose e allora passiamo al comico, è sbarcato in Italia anche il comico Mazze Knop, l'imitatore del nostro Luca Toni, passato ormai alla storia per questa canzoncina tremendamente kitsch ma sublime. Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me il numero uno. Cannoloni, lucacioni, peperoni, Luca sei per me il numero uno. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao a Roma, Roma, Ribri, amore mio. Mozzarella, mortadella, Nutella, Luca sei per me. Alle volte penso che sono abbastanza citrullo per scrivere una canzonetta dell'estate, cioè bisogna avere un quoziente, i parolieri, particolarmente basso, però insomma forse ci arrivo pure io. Allora, stiamo parlando dell'estate, delle vacanze, ed estate anche per i terremotati abruzzesi. Ricordate cosa disse Berlusconi a maggio? Ecco, sentite. Il problema è di non mantenere le persone nelle tende. 14.000 siamo riusciti ad avviarli in attrezzatura alberghiera. Adesso ne stiamo cercando altre. C'è una generosa offerta di case da parte dei cittadini italiani. Io anch'io farò quello che potrò fare offrendo delle mie case. E questa è una sistemazione molto buona. Allora, sappiate che uno di loro, uno dei terremotati abruzzesi, Antonio Bernardini, non solo non si è dimenticata questa cosa, ma adesso nella domanda per la sistemazione di alloggi ha indicato come residenza elettiva Villa Certosa o Palazzo Grazioli. Dove verrà collocato? Antonio, se sei in ascolto, se ci senti, faccelo sapere perché siamo molto curiosi. E chissà se Berlusconi lo farà contento, ma per capire cosa succede nel luogo che da ormai da anni è l'ombelico dell'estate e il punto di scaturigine della politica italiana, abbiamo in collegamento Vincenzo Lamanna, inviato del giornale davanti a Villa della Certosa. Buonasera. Davanti alla villa non più, Luca. Però no, Vincenzo, noi ti volevamo lì incatenato possibilmente. Beh, diciamo che ci siamo passati poco fa e ci hanno schedati per la 20ª volta. Ecco, ma cosa fa? Ma come vi schedano? Non ci credo. No, nel senso che è chiaro che se ti avvicini troppo, gentilmente... Ti chiedono il documento. È giusto. Tu non avevi una macchina fotografica col teleobiettivo, no? No, avevo solo il cellulare che conosci, ma nulla di più. Allora, ti volevo chiedere due cose. La prima, che cosa bolle secondo te nella testa del Cavaliere? Perché proprio ieri sei riuscito a fare una di quelle cose che non si fa spesso, e cioè intervistarlo in un momento così, uno scoop, come direbbero. Ma diciamo, come tu sai benissimo, ci vuole anche un pizzico di fortuna in questi casi, però diciamo che eravamo al momento giusto, collegati con la persona giusta, e lui aveva voglia di parlare ed è andata così, voleva lui smentire tutta la polemica sulle gabbie salariali, per cui poi alla fine ci ha fatto una chiacchierata. Chi ti ha fatto da tramite, Veronica? No. No, Veronica no, non ci vede da tempo. Sarebbe stato un ponte poi dalla Svizzera, mi sembra che sia Svizzera, quindi non è possibile. Invece ti chiedo una cosa seria, questa guerra di cui hai scritto oggi per le foto sul pontile, sì. I paparazzi sono riusciti a fare questo scatto, da dove questa volta? Questa volta quelli pubblicati sul Daily Mail pare da una barca, perché non facevano parte infatti della squadra pizzicata subito dopo gli scatti lunedì sera. Detto questo, attorno a questa storia dei paparazzi qui sta montando, non dico la loro protesta, ma comunque la loro... Cioè? Nel senso che loro... Ma quanti sono? Dove si collocano? Cioè, li incontrate nelle stradine? Che succede? Sì, diciamo che comunque ogni tanto ci fanno vedere in piazzetta qui a Porto Rotondo, che è il punto che ritrovo. Un tempo era frequentatissimo anche da politici, negli ultimi anni invece no, oramai è pieno di magnati russi e basta. E si fanno vedere ogni tanto, ieri hanno un po' chiacchierato con noi. C'è la sensazione che loro vogliano smarcarsi da tutto ciò che è l'effetto Zappato, nel senso che loro dicono: abbiamo sempre lavorato bene, in sintonia, sappiamo che Berlusconi non ce l'ha personalmente con noi, e stanno quindi scontando, dicono loro, un momento politico difficile, di tensione, per cui adesso ogni volta che si avvicinano vengono subito rimandati indietro. Loro dicono: facciamo gli stessi scatti da anni, perché in questo momento... I quattro scatti incriminati, poi dopo ti lascio perché ho da dare notizie sulla viabilità, i quattro scatti incriminati sono: uno con l'accappatoio, che lui saluta dal pontile. Uno è con i sandali bianchi in bella evidenza, accompagnato dal preparatore atletico del Milan mentre passeggia sul pontile. L'altro invece lui mentre saluta qualcuno. Quindi è proprio il preparatore atletico del Milan? Quello accanto mi risulta di sì. Sì, perché come sai... C'è sempre un sacco di gente alla Certosa, fantastica, è meraviglioso, guarda. Sì, manchiamo solo noi. Oggi volevamo entrare anche noi, ma insomma non c'è... Senti, ultimissima cosa, nella tua intervista però Berlusconi diceva che questi scatti gli davano fastidio. Sì, lui è stanco, tant'è vero che si moltiplicano anche le voci di un suo interessamento di nuovo alla vendita, è un po' un'altalena, un giorno dice la vendo, un giorno però magari la figlia Barbara che... Lo ha scritto libero, hai preso un buco là, hai dato un buco ma ne hai preso anche uno. È una notizia insomma che circola da tempo, sia Libero che Il Tempo oggi hanno citato alcune fonti, insomma, per cui ci sarebbero due magnati russi interessati all'acquisto. Però è anche vero che difficilmente il Cavaliere si priverà di Certosa, perché sarebbe anche diciamo un autogol dal punto di vista dell'immagine, perché... Certo. E vorrebbe dire colpito e affondato, come D'Alema quando vendette la casa dopo Affittopoli. Allora grazie a Vincenzo Lamanna, se avremo altre novità tu resta immobilizzato davanti alla villa, che ti richiameremo domani, così ci racconti se ci sono altre news. Se intervisti Veronica, faccelo sapere. Va bene. E rieccoci a Radio 24, Luca Terese, stiamo ronzando intorno agli argomenti dell'estate e sicuramente a uno dei personaggi dell'estate che è Niccolò Ghedini, avvocato del Premier, ma anche ovviamente deputato di Forza Italia. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei. Allora, quest'estate lei li straordinari, cioè lui va in vacanza, ma lei proprio non può fare un giorno di riposo. Come no, fa lei guardi... quando scoppia la campagna della Certosa? No, ma io lavoro volentieri anche perché il mio lavoro mi piace, quindi non faccio nessuna fatica particolare. Poi il presidente Berlusconi è un caro amico, quindi è giusto seguire le sue cose anche durante il periodo estivo. E qui, ma lei non va in villa, mai? Ma qualche volta vado a salutarlo, è capitato, ma solitamente passo il periodo dell'estate un po'. Dove? In studio, un po' una casa in campagna. Ma come le vacanze in studio? No, avvocato, non me lo dica. Lei è uno degli uomini più ricchi d'Italia, uno dei 7,40 più pesanti del paese. Beh, ma perché le vacanze in studio? Per quello. E poi andrò un po' di giorni al mare con mio figlio e mia moglie. Ho capito. Senta, le volevamo chiedere una cosa, perché ormai sta diventando, come dire, una piccola telenovela. Questa, oggi abbiamo visto, ci sono delle dichiarazioni sue nel pezzo del giornale di Libero su questa vicenda dei paparazzi, no? Ecco, come mai una foto, diciamo, amena come quella del Premier in accappatoio con a fianco l'allenatore del Milan dà fastidio? In fondo Berlusconi ha costruito il suo mito anche, come dire, sulla capacità di usare i paparazzi, di governare questa energia primigenia della stampa italiana, no? Ma guardi, il presidente è una persona molto ospitale, molto gradevole. Se i fotografi l'avessero avvisato della loro presenza, avessero chiesto di entrare, come è accaduto la settimana scorsa per un noto settimanale o in altre occasioni, certamente sarebbe stato più che disponibile a farsi fotografare in accappatoio o in situazioni comunque di familiarità con figli e nipoti, ma così diventa un incubo, perché quando sei all'interno del tuo giardino, della tua casa, nelle adiacenze di casa, sai sempre che c'è qualcuno che ti sta filmando, fotografando, è una sensazione molto spiacevole, soprattutto se sei con bambini piccoli, con i tuoi figli, e quindi sei in una situazione davvero di intimità familiare. Quindi il presidente dà sempre grande disponibilità, però c'è un limite a un minimo di privacy per quei pochi giorni che lui sta con la famiglia. Però il pontile è parte della residenza privata, addirittura è in uno spazio demaniale che la spiaggia. No, guardi, quel pontile è in concessione da molti anni, viene pagata una tassa annuale anche abbastanza elevata, viene smontato durante l'inverno e rimontato. Quanto costa? Quanto costa il pontile? Ed è prospiciente all'abitazione. Quanto costa questo pontile? Ma guardi, adesso io non ricordo la cifra esatta, ma direi una decina di migliaia di euro. Quindi continuerà la guerra fra il Premier e i paparazzi? Guardi, io spero di no. Io spero che ci sia una sorta di autoregolamentazione e che non ci debba essere questa continua necessità di rivolgersi al garante o all'autorità giudiziaria con persone che ovviamente cercano di fare il loro mestiere, e il presidente di questo ne è ben consapevole, è lieto che facciano il loro mestiere, però con un minimo di spazio per la sua vita privata, almeno all'interno della sua casa. Certo, perché lei considera... no, cioè la cosa che mi colpisce è che, come dire, lui è sempre stato il primo ad avere questa capacità di usare i media, no? Di usare anche i paparazzi. Gli altri anni questo problema non si era mai posto, no? Ma veda, bisogna anche tenere presente di quello che è successo nei mesi scorsi, in cui davvero c'è stata una grave violazione della privacy in quella casa in Villa Certosa, e dove quel fotografo sardo ha scattato Antonello Zappado ha scattato più di 5.000 foto. E quindi questo non è una cosa che ovviamente ha reso piacevole il rapporto tra fotografi e presidente. Certo, in Italia anche dopo il suo intervento nessuno può pubblicare quelle foto, però. Ah, certamente sì, perché c'è stata una decisione dell'autorità giudiziaria di sequestro e del garante che ha ritenuto che fossero assolutamente vietate quel tipo di riprese. Tenga presente che lo Zappadu ha fotografato delle persone addirittura all'interno delle abitazioni, al di là dei vetri. Questo è davvero troppo. L'ultima cosa che le chiedo, visto che poi la contesa è diventata anche giuridica, Zappadu, l'abbiamo sentito qui alla Zanzara con le nostre orecchie, ha detto che però in realtà la Villa della Certosa non è di proprietà di Berlusconi, ma di una società, no? E è assolutamente vero. È stata anche inserita fra i luoghi di sicurezza di interesse nazionale. Non e quindi più. Lui dice non è più una residenza privata. Ma il signor Zappadu non è molto informato. Allora, la Certosa è di proprietà di una società immobiliare che si chiama Idra, che peraltro fa parte del gruppo delle società di proprietà diretta del presidente Berlusconi. E comunque tra Idra Immobiliare e Silvio Berlusconi c'è un contratto in cui la intera proprietà viene data in uso a pagamento, quindi c'è un contratto vero e proprio tra Silvio Berlusconi e la Idra Immobiliare, e Silvio Berlusconi è il fruitore giuridico di quel bene. Villa Certosa poi era stata dichiarata residenza alternativa a Palazzo Chigi per eventuali problematiche di sicurezza, ma ciò fino al maggio del 2006. Con il nuovo governo non... da Prodi era stata ovviamente posta nel nulla questo provvedimento, che non è più stato reiterato nel 2008. Certo, quindi ora è semplicemente una casa affittata a Berlusconi dalla Idra Immobiliare. Esattamente. Che poi la Idra Immobiliare è sua? Certamente sì. Ho capito, ma come mai tutto questo giro? Ma non è un giro particolare, è semplicemente che molti anni addietro la società che era di Berlusconi ha comprato la villa e i terreni, poi per regolarizzare la presenza di Berlusconi e per evitare che ci potesse essere una contestazione dal punto di vista fiscale, il presidente, proprio perché venissero pagate tutte le imposte relative, ha affittato a sé quella casa. Ho capito, queste sono cose che possono accadere. Senta, io la ringrazio molto, avvocato, e almeno ci dica quando è che esce da questo studio, perché speriamo che suo figlio lo porti via e lo porti in spiaggia. Penso che la settimana ventura, qualche giorno, andremo un po' al mare. Ma quando ricomincia Santoro, il 25 settembre, lei immagino che sarà lì, fin dalla prima puntata, nella sua trincea. Se mi invitano, certamente ci sarò. Si trova bene dopo tutte queste epiche contese? Ma guardi, Santoro è un professionista di valore, ovviamente ci troviamo su versanti assolutamente opposti. Però io ne riconosco le capacità, la bravura, anche la faziosità straordinaria, ma preferisco un giornalista schierato che dice esattamente da che parte sta, da uno che invece finge di non essere da nessuna parte, di essere super partes, e invece poi cerca di essere contro Tizio o contro Caio. Quindi a me questo tipo di informazione tutto sommato piace, tranne quando ci sono dei servizi che vanno a mistificare la realtà, e questo devo dire che purtroppo accade spesso. Cioè, purtroppo, mi dica Mavalalese che... No, perché lo dico soltanto se serve. Guardi, a ciascuno di noi capita di sbagliare toni, modi, aggettivazioni, e quella è stata una serata particolarmente complessa, e quindi quell'intercalare, che forse non è molto elegante, però mi è venuto spontaneo per cercare anche di sdrammatizzare una situazione che a mio parere era imbarazzante. Ultimissima cosa, non per me, ma per loro. Lei ha introdotto nel lessico dell'italiano delle nuove parole. Utilizzatore finale è una locuzione che ormai si usa, come dire, nei bar. Le sembra, è stata per lei una parola di troppo o la parola giusta? Utilizzatore, chi utilizza è utilizzato nel nostro ordinamento molto spesso, è utilizzato nella legge sugli stupefacenti, ma soprattutto è proprio utilizzato nella legge sulla prostituzione. Perfetto, quindi era il termine tecnico. Era un termine tecnico, perfetto. Certo, io mi sono reso conto che in quell'occasione non era politicamente corretto utilizzarlo e ovviamente non lo riadopererei. Ho capito. Ma mai era stato riferito al presidente Berlusconi, era certo. Stato riferito ad una risposta tecnica. Ho che aveva fatto le giornaliste. Però di fatto è nato il ghedinese. Senta, grazie mille, noi la salutiamo, a sentirla presto. Grazie, buon lavoro, arrivederci. TG3. La Banca Centrale Europea, recessione al punto di svolta, ma resta l'allarme occupazione, torna a crescere il PIL di Germania e Francia. PDL, governo efficace contro la crisi, i dati smentiscono i catastrofisti, PD valutazione sbagliata, l'Italia peggiore in Europa. Lotta ai paradisi fiscali, 170.000 nomi sotto la lente del fisco per i soldi all'estero, indagine sull'eredità degli Agnelli. Nuove sanzioni dell'Unione Europea dopo la condanna di San Suu Kyi, leader dell'opposizione birmana, congelati i beni dei giudici. Giallo sulla morte di un bimbo a Palermo dopo una lite con i compagni. La famiglia è stato picchiato. Si attende l'esito dell'autopsia. In Corsica un sedicenne uccide nel sonno il padre, la madre e i suoi due fratelli gemelli di 10 anni. Lo stanno interrogando. La riforma sanitaria proposta da Obama. Los Angeles una folla da stadio. Le cure dentarie gratuite in un'arena per concerti. Super Enalotto dilaga la follia, c'è chi fa debiti per giocare, vengono anche dall'estero per inseguire un sogno o un'illusione. E allora questo era il TG3, e come vedete ci sono molte difformità fra i diversi sommari di TG, ma questo è dovuto al fatto che l'estate introduce molta più libertà e molte meno idee che vengono alle agenzie. Vediamo come ha interpretato questa giornata Sky TG24. Crisi, la BCE vede la svolta. Per Francoforte la recessione sta finendo. Primi segnali arrivano da Francia e Germania. A sorpresa il PIL torna a crescere. La Svizzera apre il libro dei segreti bancari, rivelerà i nomi degli evasori americani. Fisco nel mirino non solo il tesoro degli Agnelli e lotta aperta ai paradisi fiscali. Nuova puntata nella caccia al Super Enalotto. Oggi il 6 vale 131 milioni e mezzo di euro. Ferragosto in austerity, il 15% degli italiani senza vacanze. Raptus omicida in Corsica, un sedicenne uccide i genitori e i fratelli gemelli. San Suu Kyi, nuove sanzioni dall'Unione Europea contro i magistrati birmani. Sono tornate in Italia le salme degli italiani morti in volo sull'Hudson. Boxing gonnella, da fenomeno di costume a sport olimpico, esordio a Londra. Allora, abbiamo ovviamente transitato metaforicamente, se non altro con il pensiero, grazie alla corrispondenza Vincenzo Lamanna, sulla soglia della Villa del Cavaliere a Villa della Certosa, nuovamente profanata dall'attacco dei paparazzi. 4 foto pubblicate dal Daily, 2 in accappatoio, 1 con il preparatore del Milan. Chi ci è venuto in mente in questo momento di fronte a questa nuova tensione? Beh, intanto sentiamolo. Come lo era definito da un noto direttore di un TG. Eccolo, non c'è, e allora riproviamo. Stiamo parlando di lui, di Antonello Zappadu, il fotografo che ha scritto da poco una biografia, addirittura è stato soprannominato, si è autosoprannominato l'incubo del Cavaliere. Ha scritto questo libro insieme a suo fratello e racconta l'assalto alla Certosa. Sentiamo come lo definì a Fede. Non parliamo di Puzzeddu, come si chiama lui, il fotografo sardo che continua. Non ha consegnato le foto non verranno pubblicate, ma lui oggi ha subito dettagliato ogni foto. Questo Purceddu è veramente Purceddu, come si chiama? Zappeddu. Zappeddu. Zuppezza. Zuppeddu. Si chiama Zappadu. Pronto, è in linea? Sono qui, Antonello, sì. Antonello, allora, ma quando sente questo Fede, che cosa le viene in mente? Vabbè, io sorrido. Nessuna vendetta barbaricina. Mi ha boccato un po' meno. No, che devo dire, niente. Ma è vero che l'ha querelato per questa cosa, gli ha fatto causa? Sì, una causa, siamo pronti a fare la causa penale e poi seguirà quella civile per chiedere i danni. Ah, quindi volete pelarlo, insomma. Eh beh sì, insomma, è stato 27 puntate che mi ha veramente massacrato, insultandomi in alcuni casi, minacciandomi in altri casi, quindi abbiamo deciso veramente di andarci forte, per dare un esempio comunque, perché sennò questo non la smette più. Io sa che ho letto tutto il suo libro, ne abbiamo anche avuto modo di discutere quest'estate, mi ha colpito una cosa di cui non si è parlato abbastanza. Lei è stato anche licenziato dal giornale per cui lavorava, Epolis. Sì, esatto. E come è successo? Ma è successo che... L'hanno rimproverata di aver offerto le foto ad altri. Sì, esatto. Quando io invece avevo mostrate sia al direttore sia a altre cariche altre cariche dirigenziali del mio gruppo, del giornale, e attenzione, non ero neanche obbligato perché non avevo nessun tipo di esclusiva col mio giornale. Loro dicono di sì, io dico di no, e quindi davanti al giudice porteremo i documenti. Ma cosa aveva detto lui quando aveva visto le foto della Certosa, il famoso Topolanek? Ma chi lui? Il direttore? Certo. Ah sì, no, ha sorriso, non ha detto niente, non è che mi ha detto mi interessano, non mi interessano queste fotografie, semplicemente ha sorriso, ma l'ha chiesto lui di vederle, perché sapeva che c'erano queste fotografie, quindi mi ha detto fammele vedere, dato che in molti l'hanno viste, quindi ho interesse di vederle. Senta Zappadu, come sta andando il libro? Ma da quello che sapevo lui, bene, chiaro, siamo ad agosto, quindi i dati che abbiamo sono quelli parziali. Però sembra bene, siamo soddisfatti, almeno l'editore è soddisfatto. E invece le volevo chiedere, come dire, una consueta, non è che queste foto sul pontile, le foto di Berlusconi nel accappatoio le ha fatte lei? No, assolutamente, no. No, continuo a dire che io sono un reporter, quindi non sono un paparazzo, non mi apposto seguendo un certo filone. Beh, che come non si apposta? Si è appostato per... No, nei gossip sto parlando, per il gossip. Vabbè, adesso non parli male dei suoi colleghi paparazzi, questo mi preoccupa. Grande rispetto, facciamo due cose gente diverse. Che lavora come lei, ecco. Veramente grande rispetto, grande solidarietà in questo momento nei confronti dei colleghi. Sono dei colleghi. Perfetto. E quindi diceva, non è stato lei quindi a fare queste foto, perché no. È un lavoro di paparazzo. Ecco, ha saputo che insomma c'è stata, Ghedini ha protestato anche per queste foto. Sì, vabbè, ma Ghedini protesta per tutto ormai, qualunque cosa succeda lui protesta. L'abbiamo sentito poco fa, perché io gli ho ricordato una sua argomentazione, cioè che la Certosa non è una residenza privata di Berlusconi, non è la sua casa, no? Io mi ricordo questa sua tesi. Allora lui mi ha risposto, dice, ma quella società Idra che possiede la Certosa l'ha affittata a Berlusconi. Allora gli ho chiesto, ma di chi è la Idra? Lui mi ha detto di Berlusconi, quindi Berlusconi si è affittato... È affittata la stessa casa, sono d'accordo con lui, su questo sono d'accordo. Io dico un'altra cosa invece, quella è una pertinenza governativa alla pari di Montecitorio e di Palazzo Chigi. Allora, no, se io... lui dice che non lo è più, non lo è più, dal 2008 non lo è più. Ah, e quindi hanno anzi deciso... dal 2006, quando Prodi tolse questo vincolo, e lui dice nel 2008 Berlusconi non l'ha reistituito. Ho capito, noi questa informazione abbiamo diversa, che Prodi non l'aveva mai tolto questo vincolo. Ah sì? E allora continueremo a verificare. Senta, lei dove sta passando le vacanze? Su un banano di una collina? No, lì non a Porto Cervo, Colombia, no? Perché ho alcune cose diciamo alcuni impegni giudiziari, nel senso che devo firmare intanto anche le denunce nei confronti di Feltri e Giordano. Oh mamma mia. Eh sì, sì e sì, no, adesso facciamo insomma, non capisco perché Ghedini denuncia Repubblica per ricettazione nei confronti delle fotografie del Paese, mentre invece devono scamparla Feltri e Giordano. Allora, quindi guerra termonucleare globale, ma si è mai, sì, ha mai parlato con Ghedini direttamente? No. No, io ci parlai una volta con Ghedini, anche abbastanza simpatico, anche abbastanza cordiale da questo lato, poi non ci ho più parlato, anche perché le cose si sono diciamo esasperate, no, da una parte e dall'altra, perché insomma il gruppo, diciamo che da Berlusconi sono arrivate due o tre proposte con la quale noi stavamo anche discutendo, e dall'oggi a domani queste proposte venivano cancellate come se non eravamo noi che proponevamo, erano loro che proponevano, e quindi queste proposte poi venivano cancellate di colpo. Allora abbiamo capito che non stavamo parlando con persone che erano, come si può dire, coerenti, ecco. Senta, ma lei ha un'avversione storica per il Cavaliere, oppure no, assolutamente, semplicemente guarda, si è trovato in questa guerra? No, se, tu hai letto benissimo il libro, tra le tante cose lui mi prese a braccetto e mi portò a vedere anche, all'epoca era il monastero, la casa della Veronica, no? Certo. Mi portò per circa un 20-30 minuti. Sì, sì, l'ho visto minuti. E raccontato nel libro. Esatto, esatto, per cui insomma mi è anche simpatico, veramente mi è simpatico, però insomma mi è simpatico come forse imprenditore, un po' meno come politico. Ho capito. Senta, ma adesso finite queste ferie in Colombia, tornerà ancora a colpire col suo teleobiettivo? Ci dobbiamo preoccupare? Sa che anche il garante Italia, della privacy Italia, mi ha parlato di lei, sì. Ah sì, ho letto, aspetto. No, grazie, no, la privacy mi ha detto... Ho già detto che la cosa mi sta annoiando fortemente, per cui ho bisogno di nuovi stimoli. In Colombia ho alcuni lavori interessanti, certamente anche in Ecuador, ma sicuramente farò un salto anche in Honduras. Ho capito, vabbè, quindi per un po' Ghedini e la Certosa possono stare tranquilli. No, possono stare tranquilli. Li auguro buone vacanze, buone ferie, perché comunque... Anche che secondo me ora la seguono sul satellite. Sarà un settembre caldo, alla Certosa me. Ci sarà un grande schermo con un puntino luminoso in Colombia, c'è scritto zappato. No? Va bene, grazie mille, a presto. A presto, grazie a voi. Avevamo quasi congelato Zappato, ma lui ci ha messo la pulce in orecchio. Che vuol dire Zappato, ci sarà un settembre caldo? È una minaccia forse? No, assolutamente no, è un dato di fatto, nel senso non mi che... dica che si riferiva al tempo, che non ci credo. No, per carità, non è quello che volevo dire. No, sono convinto che comunque ci saranno delle nuove rivelazioni, no? Nelle intercettazioni. Lei lo sa? Sì, sono voci che girano a livello giornalistico, i colleghi che mi hanno intervistato in questo periodo dicono che esistono intercettazioni molto molto più interessanti rispetto a quello che la Daddaria fino adesso ha fatto girare. Abbiamo sicuramente problemi politici, abbiamo un premier che è isolato internazionalmente. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Lei ha detto ci sarà un settembre caldo, e quindi siccome esatto, lei è persona che ha uno sguardo obiettivo, scusi il gioco di parole, o comunque un buon punto di osservazione, e ci siamo preoccupati, ha capito? No, era questo che ti volevo dire, appunto. Ho capito. Che, molti colleghi della stampa dicono che usciranno sicuramente intercettazioni molto più interessanti. Va bene, grazie mille, saluti a Zappato, sentiamo subito Alessandro da Alessandria, che suona anche bene. Buonasera, mi sente? Buonasera. Ma sentiamo forte e chiaro. Ah, benissimo, sono molto contento di parlare con lei. Volevo grazie. Intervenire a proposito della questione INSE e a questo punto anche del caso di Roma recentissimo. Sì, ha visto che ne abbiamo parlato per primi quando nessuno ne parlava, la Zanzara. Sì, siete stati bravissimi, e su questo io vorrei appunto, per questo vorrei riflettere con lei su alcuni punti. Ne parliamo fra poco anche con due nuovi ospiti, eh? Benissimo, allora starò sicuramente all'ascolto. Volevo considerare. Però faccio la domanda. Sì, volevo fare alcune considerazioni con lei. La prima è che un pugno di Don Quixote, ovviamente con tutto il rispetto del caso, però un pugno di Don Quixote è riuscito a combattere quella che viene definita la dismissione delle fabbriche italiane. Questo mi ha fatto riflettere, perché insomma si dice che la dismissione della grande industria italiana è inevitabile, e invece sono bastati una serie di atti provocatori, ma assolutamente pacifici e tutto sommato, come posso dire, dai mezzi molto limitati, permesso di ripristinare probabilmente l'attività della INSE e l'attività di questa ditta romana di calcestruzzi. La mia considerazione non è che c'è, mi è venuto così in mente, non è che c'è un piano, come dire, ben ordito per far sì che queste fabbriche italiane abbiano, come dire, la scorciatoia di dire vabbè, c'è la crisi, si chiude, però poi basta che quattro operai ben organizzati fermino tutto e un prefetto addirittura trovi un nuovo compratore. La seconda domanda che le pongo è se questi atti daranno, come dire, daranno un'escalation di atti provocatori da parte degli operai. Non so come dire che a termini medio. Allora qualcuno... le rispondo a tutte e due le domande perché lei ha colto il punto. Il primo, già ci sono degli imitatori, succede nel Lazio dove un cementificio che è in grossa difficoltà ha visto i suoi operai salire sul tetto, perché in molte di queste realtà gli operai dicono, e a questo punto ce lo dirà la storia, che non sempre queste chiusure sono inevitabili, sono scritte nel destino, sono certificate dall'aridità disperata dei bilanci. Quanto alla seconda domanda, quelli della INSE sono stati fortunati perché secondo me hanno trovato un grosso personaggio, questo Camozzi, un ex tornitore che è diventato imprenditore e che forse ha voluto scommettere su questa cosa. Terzo, hanno trovato un mediatore, diciamo così, un ex deputato di Rifondazione molto in gamba che ora è responsabile del lavoro della lista Di Pietro, che è andato da Camozzi e gli ha detto guarda, ti faccio vedere i conti, ti fidi di me e comprati questa fabbrica. Quindi non sempre purtroppo si possono verificare queste condizioni di trovare sia, come dire, il miele e sia l'impollinatore. Sentiamo Silvia da Padova. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo dire, è giusto che gli imprenditori guadagnino, adesso vedendo il caso Agnelli, che gli imprenditori guadagnino così tanto e si lamentino sempre poi. E lei mi fa una domanda. Perché il rischio di impresa lo capisco, ma questi soldi che sono portati all'estero non sono messi nell'impresa, sono soldi personali che si tengono per loro. Io sta roba non la capirò mai. Non mi dia della comunità. Sa, neanche io, anzi le dirò che scoprendo dalle ultime certificazioni di essere nello 0,7% del paese più ricco, mi sono chiesto o sono veramente ricco e non me ne sono accorto perché c'ho pure 2000 euro di scoperto avendo pagato le vacanze, oppure qualcuno non dichiara il giusto. Che dice, ci sarà qualcuno che evade? Madonna, no, cioè pensando no, sempre, no, l'anno scorso mi ricordo... Silvia, ma lei ha dei capitali all'estero? Ma che? Io non ho proprio nulla, il niente, nulla di nulla. Niente, mannaggia. Ma allora anche lei è nello 07 più ricco del paese. No, magari. Poi voglio dire che adesso il Superenalotto certamente lo vincerà un milionario, perché giocano alla grande, perché non sono mai contenti di quello che hanno. Sono è loro vero, che giocano di più. E magari vince un milionario, sarebbe da sperarsi. Noi abbiamo sempre qui il nostro regista di Roma che ci ha annunciato che se becca con i numeri dell'Arcuri vince al Superenalotto, ci lascia e se ne va. Ha capito? Lei ha giocato? Ma no, io non ho mai giocato in vita mia, non lo farò mai, perché lo trovo una cosa indegna anche quella. Perché poi non si può dare indegna, una vincita del genere a una persona unica, che lo dividano da 200 persone almeno. Ho danno capito, un miliardetto a testa. Grazie Silvia. Sentiamo Francesco da Milano e poi fra poco avremo la voce di un esordiente, ma neanche tanto. Da oggi firma un nuovo giornale, Maurizio Belpietro, nuovo direttore Libero. Sentiamo Francesco. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire sul discorso dell'INSE, in quanto io sono ingegnere, lavoro in un'impresa metalmeccanica come imprenditore e tra le altre cose abito abbastanza vicino all'INSE. Io sono perplesso della situazione, perché senz'altro una cosa positiva è che queste persone in qualche modo riusciranno a lavorare ancora e diciamo sono riusciti a portare l'attenzione sulla loro vicenda, e questo è senz'altro una cosa positiva. Per tutto il resto, lei parlava prima di miele, polline, impollinatore, io non credo che le cose siano così lineari. Cioè, quindi secondo lei l'INSE è decotta, diciamo? Diciamo, allora, questo. L'INSE è decotta perché a me risulta che le imprese non si fanno soltanto con gli operai, ma un'impresa di un certo tipo deve avere, non so, dei tecnici, degli esperti di marketing per riuscire a vendere i propri prodotti. È come se lei pensasse di fare la sua un nuovo compratore sarà in grado di farlo. La trasmissione non senza i tecnici che mandano in onda quello che dice, o viceversa i tecnici facessero una radio Potemkin senza conduttore, senza contenuti. Io quello che temo è che ci siano delle pressioni da parte della politica, nel sindacato inteso anche magari in termini politici, ma comunque della politica tout court, per cui una società immobiliare viene forzata, magari in un periodo in cui ti può anche far piacere, a rivendere dei terreni che sono in mezzo alle case, quindi da un punto di vista industriale. Certo. Abbiamo capito. Guardi, sa che le dico, io non ho le competenze, neanche le sue probabilmente, per dire come andrà. Sto a vedere, questa pagina di storia ha vinto in qualche modo, e quindi vedremo che succede. È l'unica cosa che possiamo fare. Allora, grazie, saluto Maurizio Belpietro, che da oggi firma Libero, prende in mano una sfida difficile, spero che non si offenda se lo dico, ma l'ho scritto anche lui oggi nel suo editoriale. Direttore, eccomi, buonasera a tutti. Sì, allora, avevano detto Feltri se ne va, Libero è cotto, 70 giornalisti finiranno sulla strada, poi arriva Belpietro e suona la carica. Sono alla carica, speriamo, io sono alla carica e spero di portare questa truppa e questa redazione, questi 70 giornalisti ancora avanti in una battaglia che insomma è importante, ma credo insomma che ci siano tutte le condizioni per vincere. Sta rischiando un po' anche lei personalmente? Ma questo mi sembra naturale e scontato che si rischi. Certo, potevo starmi tranquillo al calduccio nella mia direzione di Panorama e tante altre cose che facevo, la direzione di Economy, la direzione di First, un posto sicuramente solido e tranquillo. Questa esperienza però è entusiasmante ricominciare e cercare di portare avanti un giornale come Libero, che ha una base molto solida di lettori, ma che magari essendo modellato sull'immagine del suo fondatore, ovvero di Vittorio Feltri, rischia di perdere insomma questa base. Invece l'impegno è quello di conservare i lettori, proseguire nella tradizione di giornale di informazione anticonformista e indipendente, e quindi di fare un lavoro che non ha reverenze nei confronti di nessuno. Senta, direttore, non è un mistero, anche di questo lei ha accennato qualcosa, ma vorrei che ce lo spiegasse meglio, che con Feltri c'è un rapporto particolarissimo. Intanto, come lo definisce? Avete fatto 5 giornali assieme, no? 4? Abbiamo fatto, adesso me li riconto, sì, 4 giornali insieme. Ci siamo conosciuti molti, molti anni fa. Eravate amici per la pelle e adesso siete duellanti. Non è che siamo duellanti, sì, concorrenti su due giornali che un po' di concorrenza se la fanno. Siamo amici per la pelle, cioè credo di essere stato uno dei primi a sapere che Feltri andava al giornale, perché me lo disse addirittura un mese prima di firmare, quindi insomma, sapevo tutto di questa faccenda. Ah, quindi lo ha fregato e lei già si era preparato? No, non mi ero preparato affatto, semplicemente mi ha Vittorio mi ha informato che aveva ricevuto un'offerta, abbiamo chiacchierato del più del meno, fra l'altro anche di questa cosa. Dopodiché, il giorno stesso in cui si è dimesso Feltri da Libero, ho ricevuto una telefonata di un editore che mi ha chiesto di potermi incontrare. Io, siccome avevo altro da fare, ho anche preso un po' di tempo perché non potevo vederlo, e soltanto dopo 3 giorni l'ho visto, mi hanno fatto una proposta, l'ho valutata in 48 ore e ho detto di sì, fine. E detto questo, un lettore, sa che molti degli ascoltatori di Radio 24 sono lettori di Libero, sono nell'Nord-Est, nelle zone di forza del suo giornale, cosa ci trova per esempio domani un lettore sul Libero? Qual è il motivo per cui dovrebbe continuare a comprarlo? Ci trova molte cose, ci trova molte notizie che per esempio non si trovano su altri giornali o che non si trovano date come gli danno gli altri, come le danno vero. Ne cito una che è in edicola quest'oggi. Tutti i giornali hanno messo molto nascosto, con un richiamo in prima pagina molto piccola, la notizia che l'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto la Procura di Torino, sta indagando su una maxi evasione fiscale dell'avvocato Agnelli. Cioè, come mai? Verrebbe da chiedere. Perché l'hanno tenuto mai piccolino? Noi l'abbiamo data d'apertura, perché ci abbiamo aperto il giornale, come si dice in gergo, c'era il titolo più importante, perché una maxi evasione tra 1 miliardo o 2 miliardi di euro, come viene ipotizzata, cioè, tanto per dare un'idea, cioè l'abbattimento dell'ICI, la cancellazione dell'ICI, cioè è costata 1 miliardo e 2. Quindi se sono 2 miliardi di evasione, avanzano pure dei soldi per fare altre cose. Pazzesco. No? E ecco il fatto che insomma si stia indagando su questa cosa, che ci siano degli accertamenti, pensavo che inducesse tutti i giornali ad aprire. Invece ho scoperto che è più importante ciò che accade in Svizzera oppure la polemica sui professori di religione rispetto a una notizia che insomma ha una sua... Ma guarda caso. Senta, visto che è uno scontro fra titani e visto che non c'è nessuno che conosce Feltri meglio di lei, che giornale si aspetta che farà lui? Lei, abbiamo capito che sarà un giornale di centrodestra, senza vincoli, molto libero, molto anche spregiudicato, si può dire? Sì, mi devo dire che mi entusiasma questa idea di poter fare un giornale insomma molto anticonformista e anche irriverente o impertinente, si può dire, anche magari nei confronti, come ho detto, di quella che è la parte politica a cui più guardiamo, a cui più io guardo, insomma. Cioè, quindi lei non metterà nulla nel cassetto che riguarda il centrodestra? No, ma infatti stiamo per esempio raccontando quello che sta avvenendo proprio attorno al Veneto. Domani abbiamo un'intervista a Galan, dove si capisce per esempio che lì si stanno affilando i coltelli in vista delle prossime elezioni regionali, dentro il Popolo delle Libertà e anche dentro la Lega, perché la Lega chiede di avere la presidenza della regione. Galan non vuole mollare e quindi si prepara a fare qualche operazione. Addirittura c'è qualche idea di mettere insieme una sorta di lista così veneta vicina a Galan, che raccolga qualche scheggia della Lega, raccolga qualche scheggia dei DS, molto PD, insomma c'è un'operazione che evidentemente è complessa, poi magari rientrerà, ma insomma dentro il centrodestra credo che nei prossimi mesi anche dentro il centrodestra qualcosa verrà, non solo nel centrosinistra, che pure ha i suoi problemi perché ha un congresso tra i più faticosi, come si è visto. Senta, Berlusconi le aveva chiesto di non andare a Libero, si può sapere? Ci fu un colloquio, è una cosa riservata? Sì, lo sanno tutti. No, non è che mi ha chiesto di non andare a Libero, conosco Berlusconi, no? Ma prima ne ho parlato con il mio editore che è la Mondadori, e sì, ho già ricevuto una telefonata e c'era da parte sua interesse a capire cosa io volessi fare, insomma, ecco. E invece non ha desistito? No, non ho desistito, ma semplicemente perché, nonostante anche Mondadori mi abbia chiesto di rimanere con insistenza, questo progetto è un progetto, insomma, come ho detto, che mi entusiasma. Senta, avevamo lasciato cadere solo una domanda: che tipo di giornale farà secondo lei Feltri? Farà il giornale brillante che insomma è sempre stato capace di fare, quindi farà un giornale molto vivace, di area di centrodestra, insomma un po' sulle sue corde. Chi sarà fra voi due più, come dire, più libero? Questo lo vedremo nei fatti, insomma. Sarà importante fare delle... Io, per quel che mi riguarda, ho una certa esperienza di inchieste, credo di essere abbastanza rodato in un certo giornalismo d'inchiesta che credo di poter portare sulle pagine di Libero. È un contributo, quindi garantendo a Libero lo stesso tenore, che insomma la stessa, soprattutto la stessa qualità e indipendenza, vorrei aggiungere questa nota, insomma, un po' di giornalismo d'inchiesta che mi sembra nel panorama editoriale manchi un po'. L'ultima domanda che le faccio, le avevano pronosticato, a Libero una perdita di 30.000 copie in un giorno, in pochi giorni appena la notizia del passaggio. Lei che obiettivo si dà per dire abbiamo fatto un buon lavoro, ce l'abbiamo fatto o no? Ma innanzitutto il pronostico, se questo era il pronostico, io non l'avevo sentito, non si è verificato, perché Libero non ha perso, non dico 30.000 copie, ma neanche una. Anzi, i primi dati che ci arrivano sono persino incoraggianti, e questo naturalmente non vuol dire niente, insomma. Cioè addirittura un incremento? Sì, addirittura un incremento. Sono incoraggianti, ma vedremo, insomma, poi il primo giorno non fa testo, ecco. No, io mi auguro invece di conservare tutti i lettori di Libero, se poi questo anche fregarne qualcuno possibilmente. Ah, sì, ma sì, certo, no, ognuno di noi vorrebbe avere più lettori, e quindi riuscire ad aumentare i lettori è un obiettivo che qualsiasi direttore si pone. Ma se questo vorrà dire invece il passaggio di Feltri al Giornale, che ci sarà qualche lettore di Libero che leggerà anche il Giornale, e magari mi auguro qualche lettore del Giornale che mi ricorda, visto che l'ho diretto per 10 anni, che decide di leggere Libero, avremmo ottenuto un bel risultato, cioè una doppia lettura che farà incrementare le vendite. A che ora andrà in edicola il giorno in cui esce il primo giornale firmato da Feltri? Ma andrò in edicola come tutte, sempre. Per la verità, generalmente mi recapitano i giornali molto presto, quindi già alle 7 della mattina sono in condizione di leggermi i giornali, quindi me li guarderò alle 7 della mattina e mi guarderò anche il giornale di Vittorio. Benissimo, allora scriverà sempre tutti i giorni, spesso, cioè farete anche un duello di... Scriverò tutti i giorni che sarà indispensabile scrivere, soprattutto tutti i giorni che avrò qualcosa di interessante da dire o qualcosa che io ritengo possa essere interessante per i lettori. Benissimo, grazie a Maurizio Belpietro. È nata quindi un'altra grande sfida giornalistica. Facciamo gli auguri, l'abbiamo fatto a tutti i giornali che nascono, anche l'anno scorso con Cira De Gregorio. Adesso sentiamo che cosa da dirci Piero da Trapani. Buonasera. Abbassi la radio che c'è un ritorno pazzesco. No, capito proprio a fagiolo dopo l'intervista di Belpietro, perché io prima compravo il giornale, poi non l'ho comprato più perché secondo me è diventato troppo clericale. Sono passato a Libero e mi è successa la stessa cosa con Feltri. Lui si definisce audio, ma c'aveva, che ne so, per esempio Farina. Non so, che lei li conosce meglio di me. Mi sono fermato. Non ho nessun riferimento. C'è uno come me che si definisce di centrodestra, un giornale liberale non ce l'ha, tant'è che io nelle ultime elezioni non ho votato per centrodestra perché troppo radicale, cioè, non lo so, cioè, loro lo dicono. Chi è liberale? E quindi stava dicendo è interessato al nuovo giornale, al nuovo Libero di Belpietro? No, l'ho lasciato la prima volta per passare a Feltri, ora fanno il cambio, che faccio? Già mi immagino cosa scriveranno, ci saranno sempre gli stessi, quelli che scrivono che ci sono la ICIS, che sarei io, che tra l'altro voto pure, ma almeno l'ho votato fino al penultima lezione. Ho capito, cioè, vabbè, quindi è proprio un lettore del centro-destra sconfortato. Grazie Piero, sentiamo Marcello da Terni. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Io volevo fare una domanda più generale, direi di ordine filosofico. Una piccola parentesi, credo che i nuovi direttori di giornale, del giornale di Libero, sia un arrocco per la campagna difensiva di settembre-ottobre, poi magari ne parliamo. E quello che volevo dire, volevo chiedere a lei, è una domanda che ho già posto a Olivero Bea, certo, e a Rizzo quando presentavano il loro libro. Crede lei che ci sia stata una sorta di mutazione genetica in questi ultimi 20 anni, favorita da, dalla televisione che si è sostituita ai mezzi educativi tradizionali che sono la famiglia, la scuola, e ci hanno portato a questa sorta di, che le posso dire, di volgarità generalizzata, per cui voglio dire, un personaggio come Berlusconi, contro il quale io poi non ho niente, casomai posso averla con i miei concittadini, non con lui, ha fatto benissimo il suo mestiere, diventa una sorta di simbolo, di persona da imitare, di così, un uomo da battuta, un uomo da bar, che però diventa diventa quello, da noi si dice quello ganzo, quello in gamba. Guardi, ho capito benissimo la sua domanda. La mutazione genetica c'è perché la modernità che ha cambiato questa società. In Italia c'è un'overdose di televisione? Sì. In Italia c'è un forte controllo sulle televisioni? Sì. Ma siccome lei ha trovato una persona che fra l'altro fa anche un piccolo programma televisivo sulla 7, io non credo che la televisione sia la sentina di tutti i mali. Come tutti gli strumenti può essere utilizzato bene o male. Però le posso dire una cosa. Il tempo dei media non costruisce, come dire, dittature, ma giganti dei piedi d'argilla. Basta una trovata mediatica, basta un'idea che chiunque di noi può avere, come diceva Andy Warhol, i suoi 15 minuti di celebrità, può far diventare la sua battaglia una crociata vincente. Quindi se uno sa usare la televisione, non la demonizza, non dice che è una cattiva maestra, come diceva Bobbio, ma riesce a usarla come uno strumento, può anche farla diventare il volano di una comunicazione virtuosa. Perché Berlusconi vince? Perché ci sono le televisioni, ma anche perché lui le sa usare meglio degli altri. Allora abbiamo Francesco da Arezzo e sentiamo cosa da dirci. Oh, buonasera a lei e a Radio 24. Io oggi pomeriggio ho fermato un ragazzo di colore, diciamo Bucumpra, mi ha fermato, mi ha fatto vedere un foglio, era una multa di 5.000 euro che gli hanno fatto la polizia municipale per aver venduto in mercato senza licenza un po' di fazzolettini, cioè un po' di accendini, ho visto un po' l'elenco. Ecco, che questi soldi poi, chiaro, dica. Ho capito. Che poi questi soldi non li paga nessuno, verranno fatti i ricorsi, verranno rimandati a tuo lavoro e altre cose in più, praticamente oltre il danno anche la beffa, il danno che non si riscuotano, la beffa di aumentare ulteriore lavoro e intasare tutti i canali dovrebbero servire per sbrigare altre cose, cioè. Ho capito, guardi, io su questo sono, se lei mi ha sentito i giorni scorsi, sono perfettamente d'accordo con lei. E anzi, torniamo a Lorenza Pleuteri che ci dà una novità su una storia che abbiamo seguito, che consideriamo emblematica, simbolica, quella del bengalese che era stato aveva ricevuto un decreto di espulsione perché è andato a denunciare un'aggressione. Avevamo chiesto a Lorenza di aggiornarci se ci fossero state novità, c'è stato un colpo di scena, un lieto fine. Lorenza. Eccoci qua, buonasera a tutti. Eccola qua, da Repubblica di Torino. Oltre al decreto di espulsione si è preso, ahimè, una denuncia penale, quella introdotta dalla nuova legge sicurezza. E questo era il di più, la terza beffa, insomma. È finita che al ragazzo è stato dato un permesso di soggiorno per protezione sociale. Cioè siamo molto contenti, grazie a chi? Almeno io personalmente sono molto contento. Chi dobbiamo ringraziare? Allora, dobbiamo ringraziare una rete di persone che sono il questore, che anche se in ferie ha seguito direttamente la questione attraverso il suo vicario, il prefetto, perché poi è quello titolato a firmare espulsioni o altre carte che riguardano queste faccende, e il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, che è stato chiamato in causa direttamente da un lettore che ha letto di questa vicenda su Repubblica, l'ha chiamato e gli ha detto la certezza del diritto anche per gli stranieri. Alla fine si è trovata questa soluzione tecnica che è accompagnata da una postilla, non sarà così per tutti. Eravamo al telefono Lorenza Pleuteri, Repubblica, ci stava raccontando di come questo giovane bengalese è riuscito a scampare al decreto di espulsione e alla denuncia. Ecco, sembra che lui abbia fatto delle azioni dirette. Io devo dire che fino al secondo giorno non si era neanche reso conto di quello che gli fosse successo, perché non è stato lui a cercare il giornale, siamo stati noi, fra virgolette, a trovarlo. E quindi non... Adesso, fra l'altro, l'hanno collocato in una comunità, perché con questo tipo di permesso che può essere revocato in caso di comportamenti, diciamo, non ortodossi. È previsto che possa avere un lavoro regolare, quindi con un contratto, e deve seguire anche un programma di simile a quello che si fa per le ragazze vittime della prostituzione, ovviamente in altri ambiti. Cioè, dovrà studiare l'italiano, dovrà dimorare in un posto definito e non so perché tu chiami buonismo quest'atto, visto che no, è stata applicata un'altra norma dello Stato. Figurati, ho anche polemizzato con molti ascoltatori che volevano più durezza. Dico che mi sembra buonismo quando è un provvedimento che si applica a una persona sola, cioè tutti gli altri si troveranno in questa difficoltà. E tutti gli altri, però normalmente, non è che questi casi siano molto frequenti. Io, come dire, ci vado da pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto. Bisognerebbe andare a vedere per ogni straniero clandestino che è stato vittima di reato che tipo di procedura è stata seguita. Ti posso dire, per le ragazze che sono le prostitute vittime del racket, l'applicazione di quello che si chiama articolo 14 della Bossi-Fini con questo permesso di protezione è una cosa relativamente abituale. Poi voglio vedere, stuprassero una ragazza, per dirti, neozelandese, e se clandestina che fai, la espelle? Certo. Cioè, anche reato è reato, insomma, no? Ho capito, Lorenza. E continuerai a seguire questa storia, perché siamo veramente curiosi di sapere quale sarà anche l'epilogo. Sarà molto difficile, perché il paradosso è questo ragazzo che non ha fatto niente per avere un trattamento, fra virgolette, particolare. Ieri non era a casa, cioè è scappato perché aveva paura della polizia, perché è arrivata la polizia che doveva dirgli: guarda che ti riportiamo in questura perché adesso abbiamo questa pratica nuova. Oddio, quindi addirittura lui non sa di essere stato... No, lui adesso ti spiego, è andato la prima volta alla polizia. No, lo so, ma ora gli è stato detto. Sì, anche perché nel frattempo è stato risolto anche il problemino dell'avvocato, se vi ricordate. Sì, che aveva lo stesso avvocato dei suoi aggressori. Dico, ma adesso lo sa lui che non verrà sì, più espulso? È consapevole, ha avuto questo permesso perché è un nuovo foglio di carta in mano. L'avvocato è una gentile signora che è stata nominata al posto del suo sfortunato collega, nominato due volte. Con l'interprete la questura gli ha spiegato tutto quanto. Bene, allora siamo contenti, grazie Lorenza, almeno per ora è un lieto fine. Se ci saranno altre puntate torneremo a raccontarlo. Sentiamo i titoli del TG1. BCE, punto di svolta per la recessione, l'incertezza resta elevata ma la crisi sta finendo, in Francia e Germania il PIL torna a salire. Paradisi fiscali, 170.000 nel mirino, lo conferma l'Agenzia delle Entrate. Patrimonio Agnelli indaga il fisco dopo le dichiarazioni degli eredi. Famiglia sterminata in Corsica, un sedicenne uccide a colpi di fucile padre e madre e due fratelli più piccoli. Furti d'estate, a Roma ha rapinato un intero palazzo, in due giorni svuotati 10 appartamenti, a Milano anziani spaventati si chiudono in casa. Vacanze sulle Dolomiti, tutti pazzi per la mountain bike, con la tregua e boom di turisti italiani in Terra Santa. Super Enalotto, tra pochi minuti vi mostreremo in diretta la Sestina vincente, più di 130 fra milioni di euro. Fra pochi minuti potremmo perdere il nostro regista, allora interrompiamo i titoli del TG1, sappiamo anche voi tossici della giocata occasionale che siete in attesa in questo momento, sentiamo i titoli del TG5 per essere pronti poi a tutto quello che può accadere. La Banca Centrale Europea, ci sono segnali di ripresa, rimane l'incertezza ma la recessione sta finendo e le borse chiudono in positivo. Non c'è solo il caso Agnelli nel mirino del fisco, sono 170.000 i casi italiani sotto osservazione nella lotta mondiale ai paradisi fiscali. Applausi e lacrime nella Certosa di Bologna per l'omaggio alle 5 vittime della tragedia di New York, domani e domenica i funerali. È stato massacrato a calci e pugni il ragazzo ucciso nel teramano la notte di lunedì, a Palermo, giallo sulla morte di un bambino di 10 anni. Al mezzogiorno il record delle pensioni di invalidità, il 50% in più rispetto al nord, ma sarebbero migliaia i falsi invalidi che truffano lo Stato. In tutto il mondo impazza la moda di inviare messaggi nello spazio, suppliche, richieste stravaganti e inviti gastronomici, ma mai nessuna risposta. Tra poco in diretta l'estrazione dei numeri del Superenalotto, 131 milioni di jackpot, tedeschi in volo da Berlino per tentare la fortuna. Rieccoci alla Zanzara. Allora abbiamo sentito veramente tutto, tante notizie, avete visto, anche in questo caso molto diversi, semmai TG5 e TG1. E adesso andiamo al prossimo ospite. Raccontiamo che cosa è accaduto alla INSE, già molte telefonate su questo tema, ieri ne abbiamo parlato diffusamente e oggi partiamo da, facciamo una specie di, come dire, di confronto, perché partiamo da un articolo di Gianluigi Paragone sul Libero, che in sostanza ha detto questa cosa della INSE è una brutta cosa, ora ce lo dirà lui stesso, ma insomma è stato un ricatto, un'imposizione di questi operai, addirittura viene sconfitto il sindacato, non ne può nascere nulla di buono. Gianluigi, è così? Sì, intanto buonasera. Beh, non mi è piaciuta questa storia della minaccia del corpo al posto della grammatica sindacale, cioè, mi sembra che il corpo abbia superato un po' lo statuto dei lavoratori, la Costituzione che pur garantisce il diritto. Addirittura la Costituzione? Beh sì, perché se tu da una parte hai la difesa del diritto del lavoratore a scioperare, ad astenersi dal lavoro per le proprie battaglie sindacali, ma hai anche la tutela della salute. Io non credo che sia salutare salire a 17 metri di altezza, stare in 5 per diversi giorni, tra l'altro a 17 metri di altezza e a 2 metri dal soffitto, un soffitto di lamiera d'agosto con temperatura che arriva a 50 gradi, e lo prendo dal racconto della stampa, quindi neanche un racconto di Libero. E vabbè, ma hanno rischiato, ora mi meraviglia che un direttore come te, certo, se la prenda col rischio, se uno vuole rischiare perché crede a una battaglia, non credo gli si possa fare una colpa. Va bene, però dopo però non lamentiamo, se fosse successa una tragedia, allora noi dobbiamo essere sinceri e dire la sicurezza del luogo del lavoro è un tema importante al 100% oppure è un tema intermittenza? Ho capito. Perché anche questo è un elemento della discussione. Quindi dici, se rischiano per protestare, allora devono anche rischiare per lavorare. No, io dico che secondo me questo fatto produrrà in batteria una serie di emulazioni. Allora, da una parte, perché dico che è sconfitto il sindacato? Perché perde il sindacato, perdono i poteri del linguaggio sindacale, della battaglia sindacale in sé. Questa è una specie di dimensione fai da te, in cui ognuno, anche a prescindere dalle rappresentanze sindacali, prende, sale su una gru, e poi magari un giorno supereremo anche la gru, andremo sempre verso più una estremizzazione della battaglia sindacale e utilizziamo sempre di più il corpo e non la battaglia sindacale. Quindi hanno superato i sindacati, il prossimo giro se ne farà addirittura senza. Allora, Gianluigi Paragone, vice direttore Rai 1, oggi firmatore e autore di questo articolo sul Libero. Diciamo condirettore. Condirettore, Paragone, direttore sul Libero, lo voglio mettere a confronto con un sindacalista doc, Giorgio Cremaschi, segretario nazionale della FIOM, che è il sindacato che più ha supportato i lavoratori dell'INSE. Cremaschi, immagino lei non condivida nulla di quello che ha detto Paragone, temo. Neanche le virgole. Però è questo paradosso che lui dice, il sindacato viene superato? Ma guardi, io ne vorrei ancora di sconfitte sindacali così come quella che dice Paragone. Noi siamo stati con loro fino in fondo, abbiamo sofferto con loro e festeggiato con loro. Un nostro dirigente era sulla torre con loro, spesso. Voglio ricordarlo questo, noi abbiamo fatto una scelta di condivisione di questa lotta, quindi almeno per quel che riguarda la FIOM, che non sono tutti sindacati, cioè, naturalmente. Paragone ci ha detto anche qui che è una lotta anticostituzionale addirittura. Beh, non mi pare. Mi pare che la difesa di una fabbrica contro la speculazione rientri pienamente nell'articolo 41 della Costituzione, quello che dice che la proprietà privata si esercita nei limiti dell'utilità sociale. E qui eravamo chiaramente in un caso di violazione dei limiti dell'utilità sociale. Si stavano distruggendo le macchine, io voglio ricordarlo. I lavoratori sono entrati sulla torre, sulla gru, perché il nostro dirigente sindacale, perché c'era stato un intervento delle forze dell'ordine su un'ordinanza della magistratura che ordinava praticamente e permetteva lo smantellamento delle macchine per vendere la fabbrica a pezzi, cosa che avrebbe fatto guadagnare di più che a chi l'aveva presa di quanto aveva speso per comprarla, ecco. Ecco, ora siamo stati di fronte a questo. Ecco, vorrei sentirvi su questo punto anche, perché scusi, ecco, sì. No, un attimo, tanto c'è tempo. Volevo sentire anche Paragone, perché Paragone mette il libro, hanno per 3 giorni scritto che in realtà quella fabbrica era bollita e doveva chiudere. Paragone, è così, poi ripasso la palla a Cremaschi. Io mi sono soffermato su un altro aspetto che secondo me è più importante. Io non, c'era un pezzo di cronaca, il collega... Ma anche ieri. Sì, ma infatti... Cioè il giornale che firmavi tu, una pagina. Sì, benissimo, però quella storia lì la racconta il collega. Io non ho elementi se non quello di riprendere il pezzo paro paro e farlo mio, per amor del cielo. Però io rispondo per quello che scrivo io e per quella che secondo me era la questione di fondo. E cioè la questione di fondo è... Vale la pena di sostenere con il proprio corpo una battaglia sindacale, visto che il sindacato non è più in grado con altri mezzi di chiudere le trattative? Io quindi, quando dicevo della Costituzione, Cremaschi riferisce dell'articolo di 32 in cui si garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo, ma è questa una questione importante. Cioè è giusto salire, perché l'ha fatto a Milano, ma sta succedendo la stessa cosa a Roma. Allora non, Cremaschi, si sale a 32 metri d'altezza. Ha sentito cosa dice Paragone? No, dice che l'emulazione... Non tutto, perché è un poco disturbata. Però no, dice Paragone, qui c'è il rischio che vengano anche copiati questi operai, che tutti salgano sulle gru, sulle torri. Ma c'è evidentemente una spinta a radicalizzare un conflitto sui posti di lavoro, ma questo però bisogna saperlo. Bisogna saperlo che l'autunno sarà un autunno di tensioni sociali, e io voglio sottolineare che... mi pare che l'hanno notato molti commentatori, anche non certo vicini al sindacato, che rispetto, non so, a quello che succede in Francia, dove si sequestrano i dirigenti e dove si fanno forme di lotta, o in Olanda particolarmente dure, anche abbastanza brutali, qui i lavoratori, è vero, hanno messo in discussione se stessi, hanno rischiato di proprio sul lavoro. Naturalmente noi non chiediamo... Quindi meglio rischiare se stessi che minacciare gli altri. No, voglio essere chiari, non chiediamo a nessuno di fare questo. Non è che stiamo di fronte al fatto che noi decidiamo come organizzazione chi sacrifica una parte della propria salute o rischia una parte della propria salute, perché su questo è sicuramente vero. Per noi questo fa parte sicuramente di scelte che sono assolutamente volontarie. Diciamo che, come nella storia della... c'è un cambiamento, questo è evidente, che bisogna cogliere. Mi colpisce che chi pensa sempre che noi siamo vecchi e arretrati non colga questa novità, cioè che anche nelle lotte operaie entrano modelli di lotta, non so, appunto, non violenti, di rischio non violento, che sono parte di altre tradizioni di lotte per le libertà civili. Questo indica, io credo, la gravità della situazione. Nessuno si diverte, però è chiaro che in una fabbrica che sta smantellando non è che puoi far sciopero. Lo sciopero si può fare in una fabbrica, almeno questo è sicuro. Che ha da lavorare e dove ci sono le commesse. Ritorniamo a Paragone per capire se le argomentazioni del sindacalista della FIOM lo hanno convinto o no. Pronto? Un discorso di fazione, no? Di schieramenti. Non mi convincono, perché non mi convince la messa in pericolo delle persone, dei lavoratori, e non mi convince neanche la strategia sindacale di andare, perché questo tra l'altro rischia di essere anche un po' la strada a senso unico che imbocca il sindacato, cioè di andare ad una parcellizzazione del modulo contrattuale, dei rinnovi e quant'altro. Cioè se basta così poco, cioè se basta il gesto volontario di chi si arrampica su una gru o su una torre a 40 metri d'altezza, tu alla fine costringi la controparte a firmare un accordo che non è in un'ottica generalizzata, ma è particolarizzata. Quindi hai la parcellizzazione anche di uno schema contrattuale. Mi sembra il contrario di quello che hanno detto finora i sindacati, per esempio nel dire no alle cosiddette gabbie salariali. Cremaschi, l'INSE si può salvare? Lei ha conoscenza della questione industriale? Io penso proprio di sì. La storia dell'INSE è una storia poi bisogna stare sempre nel concreto, ripeto, è una storia di una lunga lotta per un'azienda che purtroppo è capitata in un incrocio di speculazioni tra chi voleva usare l'area per fare altre cose, l'area perché peraltro anche previsto, non voglio discutere nemmeno della legittimità, dico la sostanza, da chi ha scelto di prendere la fabbrica e poi di vendere i macchinari. Io voglio sottolineare che da quando è cominciato lo sciopero sulla torre dei lavoratori, noi abbiamo avuto 4 offerte di industriali che volevano comprare la fabbrica, quindi vuol dire che proprio tanto decotta non era. Io credo che un ragionamento va fatto, cioè premesso che io su un punto sono d'accordo con Paragone, noi non ci divertiamo quando i lavoratori rischiano la loro salute, no? Ovviamente il rischio principale della salute c'è quando lavorano, l'Italia resta il principale paese europeo per infortuni sul lavoro, ma non ci rischiamo in questo, quindi sappiamo bene, siamo stati male con loro, abbiamo trepidato con loro, io voglio solo dire che evidentemente quando si arriva a queste situazioni estreme di messa in discussione anche di mettere in rischio di se stessi, vuol dire che ci sono motivazioni di fondo, non si fa bene. Per un premio aziendale, si fa per un posto di lavoro e per fermare la distruzione di una fabbrica, su un premio aziendale e su altre cose si continuano le lotte di tipo tradizionali. Voglio anche dire un'ultima cosa, accolgo la riflessione di Paragone, ma non siamo noi che stiamo smantellando il sistema contrattuale, questo richiederebbe probabilmente un'altra trasmissione su quello che è stato fatto in questi mesi tra Confindustria e alcune organizzazioni sindacali, puntando, si dice, al decentramento, poi in realtà non è vero, ma insomma è chiaro che se salta un sistema contrattuale condiviso da tutti, questo è vero, c'è una situazione di conflitti può di accadere tipo, ma questo fa parte tutto. Diciamo anche della scelta che non abbiamo fatto noi. Grazie Cremaschi, grazie a Paragone, sentiamo che cosa ci dice Massimo dalla provincia di Roma. Aia, fermi, attenzione, mettiamo la canzoncina, sono arrivati i numeri, c'è l'estrazione. Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià, chi ha piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, soldi, soldi. Allora, 11, 29, 56, 63, 88, 90. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi per Jolly, 22. Vi do una notizia, il nostro regista è così sfigato che è rimasto qui. Ma cosa hai giocato? Le misure corporee della protagonista di Bomboloni, cosa pensavi di vincere? Ride, capito? Speriamo che a Milano almeno abbia fatto un buon ingresso. Allora, mi scuso con Massimo, ma qua dovevamo dare questa notizia. Buonasera. Pronto, Massimo? Lei Buonasera. Aveva giocato al Super Enalotto? No, non ho avuto proprio il tempo. Ho capito, beh, allora non ha perso nulla, bene. Stava dicendo. Dunque, io telefono e sono uno dei dirigenti della società su cui si sono arrampicati i dipendenti a Roma. La CIM. Esatto. Volevo specificare che c'è una differenza tra noi e l'INPS. Lì c'era un problema di vendita di azienda, di smantellamento di azienda. Da noi il problema era completamente diverso. Qual è il problema della CIM ed è risolvibile? A questo punto lei ci fa da ospite e ci racconta un caso. Il problema è che noi abbiamo creato 40 anni fa un impianto industriale su un terreno del comune di Marcellina. In questo contratto si rinnovava di varie volte, l'ultimo scadenza con il comune non vuole rinnovarlo. Quindi l'azienda non quindi ha problemi. È risolvibile questo problema, però. È risolvibile, certamente, ma... Quindi a momenti ci sale anche lei sulla torre con i suoi operai. Adesso sono scesi, oggi pomeriggio sono scesi. Ah, ma perché? Cosa è successo? Perché c'è stata una riunione in prefettura e il comune ha sospeso qualsiasi atto contro la società. È stata fissata dalla regione una conferenza di servizi. Ma quindi è una buona notizia, sì, cioè ci sta sì. dando una buona notizia, cioè anche sì, qui esatto. Il problema si è risolto, è in fase di risolvimento. Cioè comunque sta meglio di prima che gli operai salissero sulla torre. Certo, tenga presente che gli operai sono saliti dopo 2 anni che noi andavamo avanti con trattative con il comune, con alti e bassi, sembrava di essere arrivati alla firma, si è arrivati alla firma a novembre del 2008 davanti alla prefettura con regione, provincia, sindacati, firma del contratto che poi il comune non ha applicato. Ho capito. Quindi per stare all'osso delle cose, il comune applicava e disapplicava, la soluzione si avvicinava e si allontanava, gli operai sono saliti su e qualcosa si è sbloccato. Non ci hanno più fatta più e chiaramente... Quindi lei non era contro gli operai quando sono saliti, insomma vedeva anche con un occhio di simpatia forse. Io l'ho saputo dopo che era successo perché ero in volo, stavo rientrando dagli Stati Uniti. Certo. E quando sono atterrato era già successo da 3 ore. Però dico, quando l'ha saputo non le è dispiaciuto in fondo che siano saliti? No, avevo paura che non succedesse niente a loro, perché in questo caso avevamo sindacati, azienda e dipendenti dalla stessa parte. Cioè, quindi possiamo coniare uno slogan inedito in questo autunno caldo, presunto caldo: operai e padroni uniti nella lotta. Molte volte capita. Va bene, senta, grazie mille Massimo, lei ci ha dato veramente un'ottima notizia. Sentiamo Antonio da Napoli. Buonasera, sono Antonio da Napoli. Allora, buonasera a tutti, voglio complimentarmi con tutta la direzione di Radio 24 Ore e con lei in particolare per l'ottima conduzione del programma. Grazie. Forse sarà... Sa che mio polemico. Padre è di Editore Annunziata? Sì. Cioè non poteva che dalle nostre terre del sud non poteva che arrivare un sostegno. Grazie, no, sono un po' polemico stasera. Sento sempre con somma gioia, devo dire sinceramente. Allora, per la par condicio tra Abruzzo e Campania vorrei prenotarmi, se possibile, per passare le vacanze nella villa del Cavaliere in Sardegna. Ma lei che cosa c'entra? Non è un terremotato. E non c'entra niente, c'entra sempre. Si rimangia lui le parole, le posso rimangiare anch'io, no? Ah, ho capito, lei vuole andare lì. Sì. Allora, così, per divertirsi, con Topolanek. Sì, la seconda polemica è sulla questione di multare i ciclisti contravventori con relativa decurtazione dei punti. Dei punti della patente, sono 3 giorni che ne parliamo, lei che ne pensa? Se un povero ciclista non ha né i soldi e né la patente, sarei curioso di sapere come si comportano i vigili. Forse lo arrestano? Perché è un povero pezzente? No, non gli detraggono nulla, pare, ma certo abbiamo sostenuto con lei questo dubbio e ancora non abbiamo avuto una risposta chiara. Grazie Antonio, a questo punto per assonanza territoriale chiediamo a Giorgio da Napoli. Sì, buonasera. Buonasera. Piacevole sorpresa trovarla alla conduzione della Zanzara. Grazie. Qualche giorno non l'ho ascoltato. E, la mia domanda no, è relativa a una, forse mi sbaglio, però penso che la Lega stia seguendo una campagna mediatica dove più o meno una volta a settimana, ogni 5 giorni mi sembra, tira fuori uno slogan. Mm. E slogan che per me che abito al sud a volte preoccupano. Ora io non so se il loro intento è quello di destabilizzare l'unità del paese, magari questo è un sogno recondito, però certamente mi aspetterei da parte di chi rappresenta le istituzioni quantomeno una difesa o quantomeno una considerazione un po' più grande di chi abita al sud, che sicuramente in certe situazioni non se la passa proprio benissimo. Mi riferisco in particolar modo al discorso delle gabbie salariali, perché io personalmente conosco tantissime persone che veramente lavorano molto duramente, ma la maggior parte di esse molto spesso non è messa, cioè lavora in nero ed è l'unica forma molto spesso percorribile qui, almeno a Napoli. E volevo sapere la sua opinione su questo. La Lega ha questa capacità mediatica, non ha sentito nei giorni scorsi, ma Io non approvo, non condivido molte delle battaglie della Lega, lo dico liberamente a viso aperto, il che non mi impedisce di comunque di riconoscere che hanno una capacità comunicativa e che la usano, e forse il problema sarà degli altri che non riescono, come dice lei, ogni 5 giorni a trovare un messaggio forte, ficcante. Se poi lei mi chiede cosa penso degli esami di dialetto per i presidi del Sud e delle fiction in bergamasco, le dirò che mi sembrano delle pirlate colossali. Comunque grazie e continuate così. E bello è la Zanzara, che ha le opinioni più diverse e gli ascoltatori più disparati da un capo all'altro dell'Italia. Infatti adesso andiamo a Pistoia. Luca, con questo bellissimo nome, mi sente? E certo, perfetto. Senta, io volevo intervenire su questa storia che reputo scandalosa della religione, diciamo, nelle scuole pubbliche, e reputo scandaloso tanto più quanto il centrodestra e il centrosinistra si trovano sempre coalizzati in questo servilismo puro alla Chiesa che ormai subiamo da un'infinità di anni. E credo anche che la questione sia, guardi, io sto dicendo davanti a una chiesa perché stavo camminando, blasfemo. Veramente triste, perché io ho 3 figli, tutti e 3 relati alla religione cattolica, ho alcuni amici cattolicissimi che pure esonerano i figli perché ritengono che democrazia significhi anche avere libertà di religione, che la religione sia una questione non solo privata ma assolutamente da non delegare a una scuola e a degli insegnanti che sono nominati tra gli altri dal vescovo. E questo purtroppo ancora nel 2009 costringe a confrontarci con un potere che è con un servilismo e forse con un interesse che è, insomma, nelle mani della Chiesa stessa. Non grazie. Esiste in Francia, mi dica. No, grazie Luca, non esiste in Francia, ma siamo anche l'unico paese del mondo in cui c'è uno stato nello stato che si chiama Vaticano. Ebriachi come me, come te, la mia mamma non ne fa più, ci vuol la macchinetta per farne 30 più, ma come me non ne fa più. Eccoci qua, abbiamo al telefono Simone Cristicchi, abbiamo voluto accoglierlo con uno dei suoi successi più celebri, quello che lui ha portato a Sanremo. Buonasera. Buonasera no, a voi. No, non è vero, è uno scherzo. Infatti sì. No, invece la canzone di oggi è quella del Superenalotto, questo è un vecchio classico, sentitelo. Soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? Simone! Sì, pronto? Come stai a soldi? Come detto, scusa? Come stai a soldi? Ma, insomma, lavoro molto, quindi... Ci sono, bene. Sì. Allora, siamo rimasti colpiti perché abbiamo letto, parlavamo oggi, l'articolo sull'Unità con la tua testimonianza, e ci interessava che ci raccontassi cosa stai facendo per l'Abruzzo. Mi sembra una cosa interessante, e anche una cosa che hai detto e mi ha molto colpito, che nelle tende non si può consumare caffè addirittura. In alcune tendopoli sì, non viene più somministrato il caffè. Perché? Ormai. Come? Perché c'è una sorta di paura, no? di timore che comunque il caffè possa far innervosire le persone che sono lì. Addirittura? Ma, non è, ma dici in quali campi? Perché mi sembra una cosa così folle che, insomma, se uno sta pure nella tenda non può prendersi un caffè, io ho paura che si macchiassero. Forse solo quello, insomma, non sarebbe un problema. Ci sono dove? In tante altre tendopoli non c'è più il vino, non viene dato il vino nei pasti, anche quello, ma quello magari si può capire perché uno diciamo che annega le proprie amarezze poi nell'alcol, insomma nel vino, e posso capire che magari una situazione del genere ho capito, però è una situazione peggiore dei carcerati se fosse così. Io voglio decidere se posso prendere un bicchiere di vino o no. Ah, sì, sicuramente non hanno commesso nessun reato, Usciti fuori dalle tendopoli ognuno può fare quello che vuole, però ecco, c'è un controllo sicuramente militarizzato della situazione, che non permette neanche alle persone di potersi riunire in più di 3, e quindi di fare assemblee, volantinaggio. Queste sono cose che mi hanno colpito in prima persona e che ho visto con i miei occhi, che però purtroppo non avevo mai sentito dai servizi del telegiornale, per esempio. Incredibile. Senti, ma tu cosa stai facendo per l'Abruzzo? Come è nato questo progetto? Allora, innanzitutto sono stato lì e ho cantato, ho portato la mia musica in una sala mensa della Tendopoli del Globo, che è una delle più grandi, e ho portato una mezz'oretta di allegria in una situazione veramente straziante, di grande disagio, dove le persone non sorridono, comunque non hanno niente da ridere. E quindi niente, ho cercato di dare un mio apporto, quello che sapevo fare, sicuramente ho avuto una sensazione di grande impotenza di fronte a quella situazione delle Tendopoli, con tutto il rispetto per i ragazzi della protezione civile, ci mancherebbe, però è proprio la situazione che mi ha lasciato molto, molto amareggiato. E ci tornerò a settembre con il coro dei minatori di Santa Fiora, con questo concerto, questo spettacolo di musica ad osteria, e sicuramente insomma anche questo, in questa occasione porteremo dei sorrisi, oltre a generi alimentari come la porchetta di Ariccia, che vi è stata gentilmente regalata. E mi sa che gli vietano anche quella, però, Simone. Speriamo di no. Quella è vera, cioè dopo la cocaina direi che è la cosa che mette più di buon umore. Senti, sì, insomma, comunque ieri sera ho fatto un altro concerto, insomma, per raccogliere dei fondi, c'erano tante persone, abbiamo raccolto molti soldi, insomma, da destinare poi alla protezione civile, grazie a Dacia Maraini abbiamo fatto questo spettacolo vicino nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Ho capito. Senti, e un'altra cosa invece, a parte questo impegno, ho sentito la voce di un bambino sullo sfondo. Sì, sei, sì, esatto. Neopadre. Sì, da un anno e mezzo. Sì. Ah, ecco, quindi già ti cammina la belva per casa. Sì, sì, sì, cammina, corre, fa danni in continuazione. Ho capito, è meglio avere a che fare con i pazzi o con i bambini? No, questa è buona, ma forse con i pazzi, sì. Ah, ecco, vedi. I bambini a volte sono proprio ingestibili. Almeno sei sincero. Senti, qual è il prossimo album che stai preparando? Il prossimo disco che esce a ottobre. Però il primo singolo estratto è il 15 settembre ed è un album secondo me più maturo, anche perché ci ho messo 2 anni e mezzo per concepirlo e ne vado titolo? Molto fiero. E il titolo è l'ultima cosa che metti ancora. Esatto. non l'hai trovato. Va bene, grazie mille Simone, auguri per grazie il tuo lavoro, voi. Grazie per la tua testimonianza e noi trastulliamoci con i titoli del TG2. Per la Banca Centrale Europea la crisi ha un punto di svolta, resta l'incertezza, ma dal 2010 ci sarà la ripresa. Il prodotto interno lordo dà già buoni segnali in Francia e Germania. In Italia 2 milioni di pensioni di invalidità, al sud sono il 50% in più rispetto al nord. Nella relazione del Ministero dell'Economia sottolineata la necessità di maggiori controlli. L'Unione Europea inasprisce le sanzioni all'ex Birmania dopo la nuova condanna al Nobel per la pace San Suu Kyi. Per i suoi giudici, congelamento dei beni, divieto di ingresso nei paesi UE. In Calabria, un quarantenne in volo con il parapendio resta impigliato nei fili dell'alta tensione. Durante le operazioni di salvataggio è caduto, morendo. Polemiche sui soccorsi. Storica decisione del Comitato Olimpico a Londra 2012, debutto della box femminile. Negli Stati Uniti e in Italia è boom delle pugili in rosa. Tra le nuove discipline anche golf e rugby a 7. Allora, avete visto? Veramente penso che non ci sia un giorno in cui c'è maggiore differenza, non c'è un titolo uguale fra questi TG. A questo punto torniamo subito a scaldarci con i nostri ascoltatori. Francesca Carla dalla provincia di Milano. Oh, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, che cosa allora, ci racconta, io... signora? È un po' che aspetto, ho sentito anche Simone Cristichi, che mi piace moltissimo. È tosto questo ragazzo, sì. Un cantautore proprio con i fiocchi e le frange. Veramente. Bene, ecco. Cosa ci voleva dire? Ecco, io volevo parlare appunto di una notizia che mi ha veramente scaldato il cuore. Ecco, mi ha fatto bene. Ho letto, adesso non ricordo bene se su Repubblica o su un settimanale, che un imprenditore, no, ha diviso la sua vincita di quasi 1 milione di euro, 975.000 o qualcosa del genere, con i suoi 7 dipendenti. Lo abbiamo letto anche noi, e siccome alla Zanzara queste cose piacciono, siamo andati a cercarlo. Non siamo riusciti, non ci è riuscito di farlo parlare, però speriamo che la notizia sia vera, Francesca. Sì, Carla. Sì, c'è tanto di speriamo. Nome e cognome, si chiama Marco Colombo. Sì, sì. No, no, l'abbiamo cercato, non sì. ha voluto parlare, forse è veramente così galantuomo, insomma, che dico questo, no? non vuole farci tanti, pubblicità. No? Troppi che dicono, ah, quelli che hanno i soldi se ne infischiano di quelli che non ne hanno. Questo è un luogo comune, non è vero, ci sono tante brave persone che non lascerebbero mai a bagno i propri dipendenti. O bene, sono d'accordo con lei, infatti anche l'uomo che ha rilevato la INSE è un imprenditore che è un ex operaio e ha fatto la sua parte. Grazie signora Francesca Carla, abbiamo al telefono Gianni Politi. E Gianni, noi volevamo questo... Neanche un 6, ci hai dato dei numeri che è una fregatura. Secondo me neanche hai abbattuto la statua. Che cosa dobbiamo fare con te? No, ma io vi avevo detto che il Superenalotto sarebbe uscito sabato, eh? Non ve l'avevo detto. Sabato! Ma la statua l'avete abbattuto o no? Dunque, la statua era pronta per essere quantomeno amputata la testa, certo. Ma una sommossa popolare, praticamente, c'erano migliaia di persone. Io, prima di procedere all'operazione, ho detto, vorrei parlare con quelli che sono, diciamo, contrari alla statua. Certo. Riassumiamo per nessuno. Chi ci sente solo da oggi e non da ieri. Sì. Ah, ecco, è sì, una sì. statua che tu hai patrocinato, si può dire che raffigura la beltà di... Emanuele Arcuri, perché ecco. Volevano a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, sullo Ionio, volevano un'idea di comunicazione per fare parlare di Porto Cesareo. Quando fu fatta la statua, ebbero un riscontro di turismo, di gente, di curiosità, di persone che venivano a vedere la statua, che è sotto gli occhi di tutti. Adesso, dopo 7 anni... Ma non è che ci hai dato un bidone e che non volevi abbattere la statua, ma volevi solo fare pubblicità e noi... Ci abbiamo creduto. Perché io mi sono fermato soltanto previa consultazione con Manuela Arcuri, perché il sindaco di Latina, la città dove è nata Manuela Arcuri, voleva accogliere la statua. Ha detto quella statua. Siccome, ripeto, prima sommossa di popolo. E poi invece c'è stato un anonimo che vuole rimanere anonimato, ammiratore di Manuela Arcuri, che era pronto a offrire 5.000 euro da dare in beneficenza a chi voleva il comune, sobbarcandosi lui tutte le spese e gli oneri per lo spostamento della statua. Ma quindi alla fine dove va a finire questa statua? Non abbiamo capito niente. Va a finire semplicemente che, siccome il comune ha ribadito che la vogliono togliere, abbiamo preso tempo 2 o 3 giorni per la migliore causa, cioè quella che, ripeto, contenti tutti, contenti Manuela, contenti eventualmente gli ammiratori, e che, alla luce di quello che è emerso oggi, quando io ho chiesto a tutti, c'erano anche i pescatori, i famosi pescatori, hanno detto, cioè, ma non è vero nulla che le nostre mogli la odiano. Esatto. Allora, insomma, vabbè, alla fine che cosa si è dobbiamo richiamarti fare? Per capire come andrà a finire, perché qui però sta diventando una telenovela. Fare la statua anche di Raul Bova da mettere accanto a quella dell'Arcuri, in modo che le mogli dei pescatori siano contente anche loro, di Raul per una Bova. Forma di par condicio. Guarda, va bene? Sei un mago della comunicazione. Ciao Gianni. Grazie. Sentiamo Manuel da Padova che ha da dirci qualcosa. Pronto? Buonasera. Intanto sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi mi scuso anche un attimino per la mia parlata, che è molto dialettale, sono del Veneto. Ma allora, si figuri. Due cose. Quella principale, siccome io faccio parte della protezione civile di Padova, di una sezione di Padova, volevo fare riferimento a quanto riguarda il discorso della somministrazione del vino e del caffè nei campi, praticamente nei campi tenda in Abruzzo. Allora, per quello che mi riguarda, ci sono stato, sono tornato da 10 giorni, diciamo che principalmente si cerca di dare alle persone l'indispensabile, quindi il vino e il caffè, diciamo che forse non fa parte di una cosa indispensabile. Ma comunque, se uno vuole consumare caffè... Non è vietato, non è vietato, c'è non è vietato. Somministrazione, il caffè giornaliero c'è. E dopo, ma Cristicchi ha parlato di alcuni campi, lei può garantire per tutti dove i campi? Dove sono stato io? No, io sono stato in un campo tenda vicino a Onna. E la allora per però carità... perché Cristicchi parla di quelli in cui è stato lui, quindi io non metto in dubbio sì. la sua parola, anche perché non credo che sia persona che si inventa balle. Quello che volevo capire io è semplicemente che non è una cosa militarizzata. È ovvio che non ci sono quantità enormi di vino o di caffè da poter dire, non so, che si ha il vino, si ha i 2 o 3 bicchieri di vino al pasto, però principalmente, insomma, bene o male, il vino, l'acqua, un caffè giornaliero, per quello che mi riguarda. Bene, Manuel, allora riportiamo la sua testimonianza, non esclude quello che ha detto Cristicchi e mi permetto di dire, immagino che lei come veneto sarà d'accordo, che se uno vuole farsi un bicchiere di vino o una tazzina di caffè ha tutto il diritto di farlo. Sicuramente, ma comunque non è assolutamente neanche vietato per quanto riguarda le persone che sono nelle tendopoli il poter andare a prendersi una bottiglia di vino e portarsela all'interno della tenda. L'ho potuto vedere io. Allora, grazie mille, la zanzara finisce qui sul filo di quest'ultima curiosità e ci sentiamo tutti quanti domani come sempre.